Italia in controluce. Sono calabrese, ma dell'avvocato ricordo che è stato un grande personaggio che ha rappresentato Torino in tutto il mondo e quindi una persona degna e meritevole della nostra fiducia, di tutti noi altri torinesi. E oggi sono qua in ricordo del decennale della sua scomparsa e anche 10 anni fa ero qui in memoria del suo decesso. È stato un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio che ha praticamente fatto crescere l'Italia del dopoguerra e quindi tutta l'Italia gli deve molta gratitudine. Io sono qui per rendergli omaggio. Io vengo proprio per riconoscenza per questa persona. Anche io sono impegnato, l'ho conosciuto, come società, ho lavorato in Fiat tanti anni e di conseguenza l'avvocato è una leggenda, Piemonte, Italia, nel mondo, sappiamo chi è stato. Ossia, la leggenda dell'avvocato penso che non abbia parole, il personaggio che è stato nella vita, quello che ha fatto per Torino e anche per gli italiani. Eccezionale, eccezionale, una parola sola, questa. Una grande persona, è stato stupendo per Torino, perché ha fatto tante cose, che adesso invece si sta sfasciando tutto. Torino dunque ricorda oggi Gianni Agnelli, morto 10 anni fa, una figura, l'avete sentito, importante per Torino, ma non solo, lo testimonia anche la folla, corsa questa mattina in Duomo nel capoluogo piemontese per testimoniare la propria vicinanza alla famiglia Agnelli. Allora noi ci colleghiamo con Torino e con il collega del Sole 24 Ore, Marco Ferrando. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo sentito davvero tanto affetto, ammirazione nelle voci che abbiamo ascoltato e che hai raccolto per noi fuori dalla chiesa questa mattina. In Duomo, dicevamo, la messa, ora invece la cerimonia in comune. Sì, la cerimonia che si è appena conclusa qui in comune con il presidente Giorgio Napolitano, John Elkann, Piero Fassino, che hanno diciamo dedicato diversi ricordi all'avvocato. Una cerimonia molto smart, molto sobria, veloce, che però ha reso probabilmente anche in questo modo onore a una persona che non amava perdere tempo. Ecco, cosa hanno detto il Capo dello Stato e John Elkann, ce lo vuoi ricordare? Il Capo dello Stato ha ribadito un concetto che credo anche in tempi di campagna elettorale può avere un suo significato, nel senso lui ha ricordato il valore di una persona che coniugava responsabilità civile e rispetto per le istituzioni. Ha detto ci vorrebbero anche oggi molte persone che coniughino questi due valori, che aiutino a dare delle visioni ampie, che quindi guardino all'Europa ma in generale al mondo. Questo è un po' il messaggio che ha dato. Mentre John Elkann in un breve intervento ha ricordato più il rapporto tra l'avvocato e Torino, quindi così è passato anche un po' in rassegna quelli che erano i mondi dell'avvocato, dalla Juventus, naturalmente la Fiat, ma anche l'arte con la Pinacoteca inaugurata proprio un anno prima della sua morte, e la Fondazione Giovanni Agnelli. Ha detto John Elkann, tutto questo l'avvocato l'aveva pensato per consolidare l'orgoglio di Torino. Grazie a Marco Ferrando da Torino, ci ha raccontato insomma queste ore, una città che ricorda Gianni Agnelli. Stamattina invece lo ha fatto, ora lo sta facendo in comune, stamattina invece lo ha fatto in chiesa, nel Duomo di Torino. E allora sentiamo le parole di Nosiglia su Agnelli, le parole dal pulpito. L'avvocato Agnelli ha speso la parte conclusiva della propria vita a lottare con tutte le sue forze e la sua intelligenza per difendere non solo la sua fabbrica, ma tutto quanto essa rappresentava per Torino e per l'Italia. Aveva chiara la consapevolezza che in un mondo globalizzato non si trattava solamente di custodire una bandiera, un simbolo, ma di salvaguardare il fitto e articolato patrimonio di attività che una società divenuta grande nel mondo aveva accumulato nei decenni. Era ben consapevole che ogni segmento del lavoro e della presenza della Fiat venivano moltiplicati in un reticolo di attività indotte, soprattutto nel territorio torinese. Questa mattina anche il messaggio di Papa Benedetto XVI, una personalità, quella di Gianni Agnelli, ha detto che per oltre mezzo secolo si impose all'attenzione nazionale e internazionale per le sue notevoli qualità di imprenditore. Queste dunque le parole di chi ha parlato di lui. Invece adesso vi vogliamo far ascoltare, anzi riascoltare, le parole di Gianni Agnelli in un'intervista realizzata da Minoli nell'84 a Mixer, un'intervista molto bella in cui l'avvocato esprime la sua opinione sul potere. Quello che direi che è grave è avere responsabilità senza potere. Io non sono un assetato di potere. Mi piace quel tanto di potere per poter assolvere i lavori che devo compiere. E la cosa che gli piace di meno? La cosa che mi piace di meno del potere è l'immagine che uno possa volerlo o amarlo. Senta, esercitare il potere comunque significa anche dover continuamente giudicare rapidamente e scegliere le persone. Lei di che cosa si fida? Come lo fa? D'istinto oppure come? Va bene, una persona è quello che fa. Quindi giudica una persona da quello che ha fatto e da quello che fa. Poi quello che deve giudicare da questo è il potenziale di quello che può fare in futuro. Sul potenziale di quello che può fare in futuro c'è evidentemente una certa percentuale di intuizione. In questi minuti la cerimonia in comune con Napolitano, il sindaco Fassino, il presidente della Fiat John Elkann, come abbiamo sentito, e c'è anche lo storico dell'economia Giuseppe Berta, autore anche di Fiat Chrysler e la deriva dell'Italia industriale. Lo ha intervistato Valentina Furlanetto. La sua vita si è intrecciata con la storia dell'Italia, tutta la seconda metà del Novecento, e con l'evoluzione della città, con le sue trasformazioni. Cioè, la storia dell'avvocato, secondo me, si è dipanata lungo tre momenti fondamentali. Negli anni Sessanta, quando sullo slancio, come dire, dell'ispirazione kennediana, lui era amico di John Kennedy, propose di un cambiamento abbastanza radicale della Fiat e della sua visione culturale. Poi nei difficili anni 70, punteggiati dalla contestazione sindacale, poi a Torino fortemente dalla minaccia del terrorismo, poi gli anni 80, che invece furono quelli del grande successo della Fiat e dell'avvocato, la stagione migliore, quando la Fiat 1 era l'auto più venduta, e infine ecco gli anni difficili, gli anni 90, in cui si capisce che la Fiat per il suo futuro deve cambiare la pelle e deve uscire dai suoi confini. Esattamente questo è il punto importante di convergenza, esattamente come la città di Torino anche deve abbandonare la sua configurazione fordista, fortemente a matrice industriale, e trasformarsi con il processo che verrà simboleggiato dalle Olimpiadi invernali del 2006, le quali, va ricordato, furono assegnate alla città di Torino proprio grazie alla mediazione autorevole di Giovanni Agnelli. Cosa direbbe l'avvocato Agnelli se fosse qui oggi di Fiat, del suo percorso attuale, di Marchionne? Da una parte il legame con l'America, anche l'avvocato Agnelli lo riconoscerebbe come proprio, nel senso che da quando la Fiat è nata il senatore Agnelli incominciò a guardare all'altra sponda dell'Atlantico, a Detroit, e voleva fare come Ford. Dunque l'avvocato Agnelli sicuramente si riconoscerebbe in una politica industriale che guarda al di là dell'Atlantico e ricerca l'alleanza e l'integrazione, le sinergie con un produttore di Detroit come Chrysler. Nel medesimo tempo io non credo che di dire che un po' di rammarico l'avvocato lo proverebbe vedendo, come dire, che è venuto meno quel rapporto simbiotico, no? Come, di cui accennavo prima, tra l'impresa il suo paese di riferimento, la nazione. Un altro storico, Valerio Castronovo, scrive invece oggi su Sole 24 Ore che Agnelli fu una sorta di ambasciatore dell'Italia nel mondo. Castronovo che intervenne ai nostri microfoni 10 anni fa nello speciale che Radio 24 dedicò alla morte dell'avvocato, non appena naturalmente si diffuse la notizia. Potete riascoltare quel nostro speciale andando sul nostro sito radio24.it. Riascolterete dunque le voci raccolte in quei primi minuti quando si seppe della morte dell'avvocato. Si chiude qui Italia in controluce, l'appuntamento è come sempre per domani alle 13:30. Un saluto da Maria Piera Ceci.